Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Today we are here in a moment of unity in our state, without ill will, to say it's time to move the flag from the Capitol grounds. Una giornata storica, abbiamo avuto parecchie giornate storiche, devo dire, in questi ultimi tempi. Però quella di ieri è stata una giornata storica davvero per gli Stati Uniti. Perché? Perché gli stati del sud, o meglio soprattutto quello della South Carolina, la Carolina del Sud, ha deciso di ammainare la bandiera che era rappresentativa degli stati secessionisti del sud, appunto una bandiera con una X blu in campo rosso, una X che va da un angolo all'altro di questa bandiera, e nei corridoi, nelle strisce della X c'erano le stelle degli stati secessionisti, l'Alabama, la Florida, la Georgia, la Louisiana, il Mississippi, la Carolina del Sud, appunto, e il Texas, che nel 1861 dichiararono la propria secessione agli Stati Uniti d'America. Perché? Perché non volevano l'abolizione della schiavitù. Ci fu poi la guerra civile americana, che fu devastante, ma che si chiuse naturalmente con la vittoria degli stati del nord, con l'umiliazione di questi stati del sud che si sono aggrappati a questa bandiera come per rivendicare l'orgoglio di un passato che non volevano dimenticare, ma di un passato che purtroppo è diventato simbolo di che cosa? Beh, simbolo dell'odio razziale, simbolo del Ku Klux Klan, simbolo così di una separazione culturale ancora profonda. Ecco, il problema qual è? È che siamo nel 2015, che abbiamo un presidente afroamericano alla Casa Bianca, eppure i conservatori del Sud, i razzisti del Sud, non si arrendono. Non si è certamente arreso Dylann Roof, un suprematista bianco, giovane, giovanissimo, che ha commesso l'eccidio alla Emmanuel African Methodist Episcopal Church di Charleston, uccidendo 9 afroamericani. Ecco, è stato questo crimine orrendo che ha risvegliato la coscienza di tutti gli americani, in particolare degli americani del sud, della maggioranza degli americani del sud. Barack Obama stesso è andato a Charleston e ha pronunciato un discorso, e in questo discorso ha detto: questa bandiera non dovrà esserci mai più. Ecco, è da lì che è partito questo movimento. Il governatore Nikki Haley è riuscito a mettere insieme una maggioranza forte, importante, e dunque ha firmato ieri la legge. La bandiera sarà ammainata questa mattina alle 10 americane, alle 4 del pomeriggio in Italia. Ci sarà una cerimonia al Campidoglio di Columbia, che è la capitale della Carolina, dove ha sede l'ufficio del governatore. I cannot believe that we do not have the heart in this body to do something meaningful, such as take a symbol of hate off these grounds on Friday. Jenny Horn, deputata repubblicana discendente del presidente confederato Jefferson Davis, in lacrime: non riesco a credere, ha detto, che non abbiamo il cuore di abbattere un simbolo di odio. Se qualcuno di voi sta pensando di modificare il proprio voto, farà sì che questa bandiera sventoli ancora venerdì. Per la vedova del senatore reverendo Pinckney e per le sue 2 giovani figlie questo sarebbe una beffa oltre al danno, e io non voglio esserne parte. Il reverendo Pinckney naturalmente è il reverendo dell'Emmanuel African Methodist Episcopal Church, che è stato ucciso e che era anche un senatore al Parlamento dello Stato della Carolina del Sud. Removing the flag from this state's capital would not be an act of political correctness. It would not be an insult to the valor of Confederate soldiers. It would simply be an acknowledgement that the cause for which they fought, the cause of slavery, was wrong. Ecco, Obama dice: quella bandiera ha sempre rappresentato più di un orgoglio ancestrale. Per tanti, neri e bianchi, ricorda un sistema di oppressione e di segregazione razziale. Jesse Jackson invece aveva detto: non si può lasciare quella bandiera sventolare, bisogna ammainarla, c'è bisogno di un cambiamento che dia corpo a una nuova Carolina del Sud. Ecco, perché vi racconto di questa storia? Perché sembrava impossibile che questi stati potessero davvero rinunciare a questa loro forma di orgoglio. Questa bandiera finirà in un museo, come ha chiesto Barack Obama. Non solo, non sarà più reperibile in commercio, perché una gran quantità di grandi magazzini, da Kmart, Macy's e così via, hanno deciso di non venderla più e l'hanno eliminata dal mercato. Bene, vorrei chiudere con una piccola riflessione su quello che sta capitando in Grecia, in Cina, sulla borsa americana. Si è verificata una cosa interessante ieri: la borsa in apertura, in prima mattinata, ha fatto un balzo addirittura dell'1,3%, arrivata a quota 17.750. Perché? Perché dopo la più forte perdita in molti anni in Cina c'è stato un recupero della borsa di Shanghai e dunque si diceva, beh, Wall Street a questo punto è più ottimista. Dopodiché nel corso della giornata questi guadagni di Wall Street sono svaniti e alla fine ha chiuso l'indice Dow Jones con un aumento di appena lo 0,19%. Perché? Beh, perché il problema vero non è la Grecia, il problema vero non è la Cina. Certo, sono dei fattori che hanno un impatto a breve psicologico sulla borsa americana, sull'economia americana, però hanno ragione il segretario al tesoro Jack Lew e ieri Olivier Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, quando dicono che l'America è sganciata da questi rischi, tra virgolette, di paesi emergenti, per quanto ovviamente la Cina sia molto più importante della Grecia. Perché dunque questa reticenza della borsa americana a andare in avanti, a superare questa soglia psicologica di quota 18.500 che non è mai riuscita a superare e a superare questa banda di oscillazione che continua a portare l'indice giù al ribasso fino a quota 17.003, 17.004, 17.005? Perché ci sono due problemi di fondo. Il primo è legato al fatto che le aziende americane non stanno facendo bene, i risultati trimestrali non sono stati soddisfacenti, non ci sono stati guadagni sufficienti e questo è un problema che sta diventando, non voglio dire strutturale, ma comunque congiunturale, perché così abbiamo visto nel primo trimestre, così probabilmente succederà nel secondo trimestre e chissà, forse potrebbe continuare questo trend poco rassicurante sul fronte dei profitti anche nel corso del terzo e del quarto trimestre. L'altro elemento riguarda la Federal Reserve. Tutti sono sicuri, ed è già scontato nei prezzi di borsa, che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse prima della fine dell'anno. Ci sarà un aumento. Il problema è che nessuno sa cosa farà la Fed dopo. Ci saranno altri aumenti? Ma chi lo sa? Punti interrogativi. Ecco, è davanti a questi punti interrogativi che riguardano i profitti delle aziende americane e le decisioni che dovrà prendere la Federal Reserve che gli investitori si interrogano e alla fine scelgono la prudenza piuttosto che l'ottimismo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di questa svolta storica. Non ci sarà più a sventolare la bandiera sudista sul Campidoglio di Columbia, la capitale della South Carolina. E dunque a questo momento storico io voglio dedicare la canzone del giorno, una canzone straordinaria che mi ha sempre conquistato, James Taylor, Carolina in My Mind. E sappiamo che nella testa di James Taylor la Carolina non è quella della bandiera segregazionista, ma quella della nuova Carolina che nascerà oggi. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's the silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.